Welcome to the zoo. Zoo. 105 Zoo. Che lo so a 20 anni, resta sempre il meglio, il meglio dei programmi. Porta 1000 amici, dopo 1000 grammi, dalle 2 alle 4, se vuoi festeggiarci. Ci volevi morti, siamo ancora vivi. Quanti precedenti, siamo recidivi. Caccia in bocca, tu ci tocca, siamo una famiglia. Quanta strada abbiamo fatto fra la tua famiglia. 105, questa è la stazione. Dimentica i problemi almeno per 2 ore. Mazzoli capocupa senza l'elezione. Com'è che da 20 anni è sempre un'emozione? Con tua adrenalina, la roba ma spina. 2 ore in cui scappo, in cui stacco la spina. Ed anche se becchiamo e siamo brutti come pande, restiamo tali quali fra i mortali come Highlander. Ai, ai, ai, sono arrivati 20 anni. Facciamo presto che tardi. Facciamo ancora più tardi.